rasa roh hati mardongan si tuap niloba tetibi firni tungguh namu pasah roh hati tuho ito Terima kasih. Kau nona ¡Suscríbete al canal! sito golabo mar sakdope mar gembira ho mar sito go sito go sito golabo. Salala, salala, salala, salala, salala, salala. Adong endeku na tegis tabo, kubo alingo mandain korando. Tegis adura, botong dabora, si togol ko ana, si togol nabo. Behala kala kura dabo, sarubaru itu onang onando, ang dia berke. Ya hampe masato masito sito sito gulabo io mata iling sarang sarang sarang sarang sarang sarang sarang marga sarang masito sito sito gulabo io mata iling sarang sarang sarang sarang sarang sarang sarang sarang marga sarang Aujourd'hui

Rosita, oh, Rosita, Rosita, oh. Sarado, hey. Toro si boru lauli hasia.